e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Ed eccoci ritrovate, buon inizio settimana a tutti, anche a te Nicoletta, buongiorno. Buongiorno a te, a tutti i nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Allora, in questi ultimi giorni, con tutto lo spazio che necessariamente abbiamo dovuto dedicare al salvabanche e ai risparmiatori, abbiamo dovuto lasciare da parte molti temi di attualità, fra cui la legge di stabilità, che pure contiene notizie molto importanti che ci interessano. Quando il provvedimento avrà il via libera definitivo, cercheremo tutte le misure che ci interessano, quelle che hanno il taglio cuore denari, ve le racconteremo e spiegheremo. Oggi però intanto un focus su una delle misure previste, vorremmo farlo perché a noi il tema casa piace, allora vogliamo indagare su come sarà possibile a partire dal 2016 comprare casa con il leasing, esattamente come si può fare con un'auto o un macchinario industriale. Perché abbiamo scelto proprio questa notizia? Perché è una misura che guarda con particolare attenzione ai ragazzi che hanno sotto i 35 anni ed è una misura che prevede degli incentivi fiscali molto interessanti e dà l'opportunità anche a chi ha non ha magari redditi consistenti e stabili di comprare la prima casa. Ne parleremo tra poco. Invece nella seconda parte del programma, Deborah, cambieremo decisamente pagina, parleremo di viaggi, incontri e cambiamenti insieme a uno psicoterapeuta, a un attore scrittore, a un runner, un trio insomma. Una parola che non uso a caso per parlare di quella volta che qualcosa o qualcuno ha lasciato un segno profondo nella nostra vita. 800 24 00 24 per raccontarci come avete capito che un incontro nato per caso in realtà avrebbe cambiato in modo significativo il corso della vostra vita. Voglio andare a casa. La casa dov'è? La casa dove posso stare in pace. Io voglio andare a casa. La casa dov'è? La casa dove posso stare in pace. Allora, andiamo a una delle grandi novità che probabilmente contrassegnerà il 2016. Si riferisce al mercato immobiliare. La prima casa, a quanto pare, si potrà comprare in leasing come l'automobile. Abbiamo fatto anche un altro esempio prima, anche come un macchinario industriale, un capannone industriale. La Camera dei Deputati ha approvato la legge di stabilità 2016 che contiene le regole per l'avvio del leasing immobiliare, prevedendo incentivi fiscali soprattutto per i giovani che hanno meno di 35 anni, gli under 35. Ci spiega tutto questa mattina Gianluca De Candia, direttore generale di Assilea, che è l'associazione italiana leasing, che ha lavorato un bel po' per convincere il Parlamento appunto ad introdurre questa misura. Lo fa per la verità questo lavoro appunto di tentativo di convincimento da qualche tempo. De Candia, buongiorno, benvenuto a Cuore Denari. Buongiorno a voi e a buongiorno. Tutti gli ascoltatori. Allora, 800 24 0024, se l'idea vi attira, se ne avete già sentito parlare, se volete saperne qualcosa di più, quali sono gli aspetti sui quali vorreste che ci soffermiamo questa mattina per avere tutti i chiarimenti del caso su questa nuova modalità per comprare casa. Allora, dottor De Candia, è una novità assoluta o in qualche modo si poteva già finanziare un'operazione immobiliare attraverso il leasing? Ma innanzitutto il leasing immobiliare è una realtà importante per le imprese e per tutti coloro che hanno una partita IVA, però di fatto era sconosciuta a tutti i privati. Fino ad oggi questi privati non hanno avuto alcuna convenienza, sia dal punto di vista economico che fiscale, ad acquisire in leasing un'abitazione, sia essa una prima casa oppure una seconda casa. Quello che cambia è da gennaio 2016, cambia tutto, il leasing prima casa sarà sicuramente un'alternativa da prendere in seria considerazione rispetto all'acquisto ad esempio con un mutuo, ma soprattutto avrà maggiori tutele per, in questo caso per il giovane, ma sarà molto più conveniente sotto alcuni aspetti, anche se a specifiche condizioni. Certo. Adesso spiegheremo agli ascoltatori, magari attraverso degli esempi molto concreti, in quali casi è più conveniente cercare di insistere con la banca per ottenere un mutuo, piuttosto che invece cercare di far leva sul leasing immobiliare. Ma dicevo prima, dottor De Candia, che le misure contemplate dalla legge di stabilità riguardano questi incentivi fiscali, soprattutto la platea degli under 35. Perché secondo lei comprare casa con il leasing è particolarmente vantaggioso soprattutto per i più giovani? Perché avete guardato soprattutto a questa platea? Abbiamo guardato a questa platea innanzitutto perché nel caso del leasing di fatto è la società di leasing che acquista l'abitazione anticipando di fatto l'intero prezzo di acquisto e finanzia di norma quasi l'intero valore l'intero importo del suo valore. E come può ben immaginare era proprio questo aspetto che andava ad escludere un alto numero di soggetti, no, che non disponevano di quella liquidità necessaria per poter acquistare la casa dei desideri. con questa norma di fatto aumentano enormemente le potenzialità. Tenga presente che sulla base dei dati che ha diffuso il MEF sulle ultime dichiarazioni dei redditi, il Ministero dell'Economia, per spiegarlo agli ascoltatori, esatto, che non sanno, esatto, cosa c'è dietro questo acronimo, questa sintesi, sì? Sì, esatto. Oltre 200.000 giovani sotto i 35 anni hanno dichiarato di non possedere una casa di proprietà, ma hanno un reddito lordo tra i 30 e i 55.000 euro e quindi sono possibili destinatari di questa manovra. La manovra non finisce qui, naturalmente è rivolta principalmente agli under 35, ma addirittura ci sono oltre 800.000 over 35 che possono accedere a questa misura, sempre a condizione di non avere un reddito lordo superiore ai 55.000 euro. Allora le dico già che stanno arrivando delle domande all'800 24 00 24 e al 349 238 6666. C'è chi chiede chiarimenti, adesso ci arriviamo, anche sul tipo di rapporto di lavoro che bisogna avere per poter accedere al leasing finanziario, perché non abbiamo ricordato, dottor De Candia, che in realtà la legge di stabilità introduce anche questa definizione, questo concetto. Esatto, grazie per la domanda, perché di fatto la legge di stabilità dà finalmente anche una certezza a tutti, anche alle stesse società di leasing, perché viene data una definizione di leasing finanziario. Fino ad oggi era assente, eravamo l'unico paese in Europa a non avere una norma sul leasing. In sostanza il bene, in questo caso anche da costruire, viene acquistato dalla società di leasing, che deve essere o una banca o una finanziaria vigilata comunque da Banca d'Italia, su scelta e indicazione del cliente, e lo mette subito a disposizione del cliente per un dato periodo di tempo, a fronte di un pagamento di un canone periodico che può essere mensile, trimestrale o anche semestrale, con la caratteristica che il cliente ha la facoltà di venire proprietario alla fine del contratto versando un importo che è già prestabilito al momento in cui stipula il contratto di leasing. Nicoletta, visto che allora, ci scrive Patrizio, devo comprare una casa, ma ormai aspetto Babbo Natale. Ci scrive Patrizio. Sta arrivando, Patrizio, abbia fede. Ecco, però è 36 anni. Ecco. Per un pelo. Per un pelo, ma in realtà, dottor De Candia, come lei ci diceva prima, non è che la platea degli over 35 sia del tutto esclusa da questa modalità di compravendita di un'abitazione. Esatto, infatti la condizio sine qua non è proprio un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro. Senta, allora, prima di andare al dettaglio dell'incentivo fiscale che prevede la legge di stabilità e alle modalità con cui, appunto, quali sono proprio i passi da fare per comprare casa secondo la procedura nuova introdotta appunto dalla misura di stabilità e secondo quanto prevede il leasing immobiliare in questa nuova versione che la legge di stabilità prevede, appunto, volevo chiederle, da qualche tempo noi abbiamo sentito parlare anche del cosiddetto rent to buy, l'affitto prima dell'acquisto di un'abitazione. Si entra in una casa, si paga un canone che viene naturalmente previsto fra compratore e venditore, e dopodiché al termine di un determinato periodo appunto questa quota che è stata versata sotto forma di canone d'affitto viene scontata dal prezzo finale appunto dell'abitazione quando si arriva al momento del rogito per la compravendita finale. Che differenza c'è con questo nuovo strumento appunto che invece prevede avete previsto, mi viene da dire voi, ma insomma prevede la legge di stabilità? Ma guardi, in sintesi stiamo parlando di due modalità completamente diverse, perché da un lato il rent to buy è una modalità di compravendita a tutti gli effetti, non è uno strumento di finanziamento come può essere invece la locazione finanziaria, leasing finanziario. Nel rent to buy chi vende non deve essere una banca o una finanziaria, e quindi è un soggetto che può essere un privato oppure un costruttore. Nel caso della locazione finanziaria, chi eroga il finanziamento deve essere obbligatoriamente una banca o una finanziaria vigilata da Banca d'Italia. Inoltre, nel caso del rent to buy, il canone che viene pagato, di fatto una quota è relativa alla locazione ordinaria, mentre una quota non è nient'altro che un deposito in acconto del futuro acquisto. Nel caso della locazione finanziaria viene pagato un canone che contiene una quota capitale e una quota interessi, e al termine del contratto di finanziamento può esercitare questa opzione finale di acquisto, detto più comunemente riscatto, a una somma che è già prevista al momento della stipula del contratto. Allora, 800 24 00 24, numero verde a vostra disposizione, ma anche WhatsApp, vedo, certo, che è molto vivace. Volevo leggere il messaggio che è arrivato proprio in questo istante. Ma dal punto di vista pratico, che differenza c'è? Sempre rate mensili sono, ci scrive un ascoltatore. La differenza il regalo è, non ce lo, esatto, nell'incentivo fiscale, che è particolarmente. Allora, dottor De Candia, magari possiamo proprio cominciare, visto che questo il tema che più interessa i nostri ascoltatori, è proprio attraverso un esempio far capire in che maniera si concretizza il risparmio e il vantaggio per un eventuale, come dire, destinatario di una misura di questo tipo. Allora, facciamolo subito. Voi peraltro avete stilato come Assilea una guida molto interessante, leasing prima casa per i giovani. A parte averla mandata a me per potermi documentare al meglio, dottor De Candia, dove la possiamo trovare? Possiamo trovare questo piccolo vademecum sul vostro sito? Beh, naturalmente stiamo attendendo che venga varata ufficialmente la legge di stabilità, ma stiamo parlando veramente di giorni, perché si attende la sua approvazione tra domani sera e al massimo mercoledì, quindi subito dopo la guida è pronta, sarà online. Assolutamente, faremo allora anche un breve video per tutti i futuri clienti, gli interessati. Allora, facciamo una cosa, sono le 10:45, se Carmelo è pronto possiamo andare con il traffico, quindi non anticipo per niente l'esempio, lo faremo in maniera esaustiva fra qualche minuto. Cuore e denari. Allora, la legge di stabilità introduce incentivi fiscali per gli under 35 che vogliono comprare casa ma che invece del mutuo considerano il leasing immobiliare. Come fare? Come si accede a questo strumento? Qual è la convenienza rispetto al mutuo? È una particolare forma di finanziamento per acquistare casa, ma prevede delle condizioni differenti rispetto alla tipologia del mutuo prima casa, che non sempre permette a tutti i soggetti interessati di accedere, sia per il tipo di contratto di lavoro che hanno, che soprattutto se a tempo determinato ovviamente rende le cose un po' più difficili, sia per lo status economico. Allora, noi stamattina cerchiamo di raccontarvi in che cosa consiste questa novità. 800 24 00 24 ci sta dando una mano Gianluca De Candia, direttore generale di Assilea, l'associazione di categoria delle società di leasing. Prima degli esempi sentirei Daniele da Padova. Daniele, benvenuto. Buongiorno a tutti. Eccoci a lei. Sì, vada. Io chiamo perché vorrei sapere, avere dei chiarimenti dal dottore in merito al fatto che, se per caso cambia la forma contrattuale, io ho 34 anni e una volta stipulato il leasing di acquisto, se ci sono delle variazioni, parlo di forma contrattuale del contratto di lavoro, del rapporto di lavoro, certo. E in più se ci sono eventuali variazioni del leasing, se cambia il reddito in incremento, quindi se si superano i 55.000 euro di cui si parlava prima. Perfetto Daniele, una domanda assolutamente pertinente. È chiaro che noi ci auguriamo, dottor De Candia, che tutti i ragazzi che hanno bisogno di accedere al leasing immobiliare, ovviamente per fruire dei vantaggi fiscali, ma lo fanno perché magari hanno un reddito complessivo annuale appunto un po' più ridotto, magari rispetto ad un lavoratore che ha, come dire, una condizione economica un po' più stabile, magari di entrate anche un po' più consistenti. Lui dice, insomma, se la mia situazione cambia, come gli auguriamo naturalmente che migliori, però se io ho fatto un contratto, significa che in corsa poi la società di leasing può cambiarmi anche le condizioni contrattuali? No, assolutamente no. Quindi vale la condizione di partenza? Le condizioni contrattuali non possono essere cambiate a meno che le parti di comune accordo non prevedano appunto delle modifiche. Tenete presente, questa è anche un'altra delle differenze rispetto al cosiddetto rent to buy, cioè il contratto di locazione finanziaria è comunque un contratto di finanziamento che è disciplinato dalle regole previste da Banca d'Italia. Quindi va espresso un tasso, devono essere riportate le condizioni economiche, a quelle deve sottostare sia naturalmente la società di leasing, banca o finanziaria, che il cliente. Altra cosa, non abbiamo ricordato che l'incentivo fiscale è limitato nel tempo, però, dottor De Candia, questo è un aspetto sul quale bisogna fare trasparenza sin dall'inizio. Cioè dura 4 anni, non è male, però 5. Comunque. Dal 2016 al 2020. Sì, esatto, fino al 31/12 del 2020, ma anche lì è naturale, come poi adesso vedremo, avremo modo di vedere. Di fatto il governo e il Parlamento hanno previsto una norma che ha un impatto dal punto di vista fiscale estremamente importante, quindi avranno modo di appurare la bontà di questa manovra nell'arco dei 5 anni e poi vedere se estenderla. Per rispondere anche alla domanda dell'ascoltatore, tengo a precisare che la condizione dei 55.000 euro deve esistere al momento della stipula del contratto. Quindi questa è la condizione basilare: al momento in cui io andrò a assicurare il contratto devo possedere un reddito lordo non superiore ai 55.000 euro lordi. Poi, a seconda dell'età, in questo caso del contribuente, si potrà usufruire di una detraibilità al 19% dei canoni di leasing fino a un massimo di 8.000 euro l'anno. Annui. E addirittura, questa è un'altra cosa importantissima, la detraibilità sempre al 19% del prezzo di riscatto fino a un massimo di 20.000 euro sempre in dichiarazione dei redditi. Questo nel caso di under 35. Nel caso in cui il cliente è un over 35 al momento della stipula del contratto, questi benefici fiscali sono ridotti alla metà, ma risultano essere sempre più convenienti naturalmente rispetto magari a un mutuo ipotecario. Ce lo faccio capire con un esempio allora, dottor De Candia, prendo proprio quelli che avete lavorato voi con la vostra guida. Partiamo dal più basico, chiamiamolo così. Abbiamo di fronte a noi dell'under 35, reddito lordo 30.000 euro, perché potrebbe essere la condizione forse più diffusa sul territorio, perché prima di arrivare a prendere 55.000 euro l'anno, parliamoci chiaro, ci vuole un po' di tempo per i ragazzi che entrano adesso nel mercato del lavoro. Under 35, reddito lordo 30.000 euro, l'ambizione massima che si può avere è di acquistare un'abitazione che ha un valore, ammettiamo, di 100.000 euro. Sì, allora in questo caso naturalmente andiamo subito a verificare quella che può essere la rata mensile sostenibile, no, dell'under 35, orientativamente, perché poi naturalmente le cose variano a seconda dei parametri finanziari dell'operazione, poi orientativamente stiamo parlando di una rata sostenibile mensile di circa 620 euro. Avete fatto il 30% del reddito netto entrante? Beh, sono i classici calcoli che vengono fatti, no, nel caso in cui vengono richiesti dei mutui, quindi in questo caso si cerca di stabilire quella che Io raccomando sempre di andare anche un po' sotto il 30%, perché l'imprevisto è sempre dietro l'angolo, però insomma... Assolutamente, i calcoli sono estremamente prudenziali. Qui stiamo prendendo naturalmente un under 35 con un reddito lordo di circa 30.000 euro. Il valore dell'abitazione abbiamo detto 100.000 euro, la durata del leasing di circa 20 anni, abbiamo un canone alla stipula di circa del 15% e il riscatto del 20%, tutto questo naturalmente anche, no, per sfruttare la convenienza dell'operazione. Abbiamo preso un tasso sempre in via prudenziale del 3%, viene un canone di leasing di circa 412 euro, ma la cosa più importante è che alla fin fine il giovane avrà un risparmio fiscale di oltre 23.000 euro. Ricordo, valore dell'abitazione 100.000 euro, risparmio fiscale 23.000 euro. Senta, chi ci si deve rivolgere per avere un leasing, dottor De Candi? Ad una società specializzata oppure la banca può anche intermediare? Perché molte banche hanno le proprie società di leasing. Quindi che cosa può succedere? Che magari vado in banca, la banca non mi dà il mutuo, ma mi dice perché non fai il leasing immobiliare? Si può scatenare anche un po' questa situazione di confusione? Non lo so. Che cosa può suggerirci di fare per trovare l'interlocutore giusto per fare questa operazione? E non è che adesso che si apre questa opportunità di mercato sorgeranno come dei fiorellini di bosco tante società di leasing pronte a mettere le mani su un mercato potenziale che è molto interessante? Dobbiamo stare attenti, che ci dice? Guardi, mi ha fatto una serie di domande, quindi spero di rispondere altrettanto in maniera sintetica. Innanzitutto chi eroga un leasing finanziario deve essere o una banca o una finanziaria vigilata da Banca d'Italia. E da questo punto di vista non è che io oggi decido di aprire una società di leasing così perché così metto le mani su questi giovani. Tra l'altro sul sito di Assilea, che è il vostro organo ovviamente di rappresentanza ufficiale, troviamo tutte le società operanti secondo le iscrizioni. Ecco, infatti, anzi, quindi già andiamo sul sito di riferimento che è già una buona idea. www.assilea.it sono riportate tutte le società di leasing iscritte ad Assilea operanti nella locazione finanziaria e quindi non solo naturalmente immobiliare. Sono riportati anche tutti i dati identificativi, quindi a conferma di quanto vi ho detto prima in termini di iscrizione nell'albo di Banca d'Italia. Tenete presente che una finanziaria che eroga contratti di locazione finanziaria ha una vigilanza equivalente a quella delle banche, quindi a tutela anche e soprattutto della clientela. Inoltre sul sito Assilea è possibile anche avere tutti gli uffici commerciali, tutti i canali commerciali utilizzati dalle società di leasing per erogare i loro prodotti, quindi da questo punto di vista avete un ampio dettaglio di informazioni. Esiste un tetto massimo di finanziamento, dottor De Candia, e in genere il leasing che viene concesso al richiedente è anche una cifra che, non lo so, viene periziata sulla base del valore dell'immobile, nel senso che poi la procedura di istruttoria è la stessa che viene seguita per l'erogazione di un mutuo bancario? Ma guardi, da questo punto di vista la valutazione non è effettuata solo naturalmente sul cliente, ma soprattutto anche sul bene, perché come abbiamo detto all'inizio la società di leasing è proprietaria del bene, quindi viene fatta una perizia molto accurata, ma questo è anche richiesto espressamente dalla stessa Banca d'Italia. E quindi per rispondere anche alla prima domanda, non è che esiste un tetto massimo, e la società di leasing acquista il bene, no? Mm-hmm. E per certi versi anche il vantaggio al lato del cliente. Quindi la società di leasing può dire anche no, a me quell'immobile non interessa, magari a costo di perdere il cliente? Certo, questo sì, certo. Naturalmente deve essere un'operazione immobiliare vantaggiosa anche per la società di leasing, immagino. Essendo proprietaria, naturalmente certo, deve fare una valutazione, non può fare un'attività, diciamo, ecco, immobiliare, ecco, questa gli è preclusa. Allora, sentire Giuseppe da Latina, dottor De Candia, poi andiamo già in pausa a sentire il giornale radio, poi gli ultimissimi minuti. Tanti messaggi ritorno anche su WhatsApp. Giuseppe, benvenuto. Grazie, benvenuti, grazie per il benvenuto e grazie a voi, bellissima trasmissione. Ci dica, grazie. Buongiorno. Buongiorno. No, il problema del leasing immobiliare, che finalmente è rientrato, perché era già un qualcosa di cui si parlava 10 anni fa, penso, sì, 2005-2006, e poi era stato bocciato non era stato portato avanti dal governo. Adesso si ripresenta e penso che sia un'ottima cosa come strumento finanziario per poter accedere a quella che è uno dei beni più importanti riconosciuti dalla Costituzione, che è la casa, la prima casa degli italiani. L'unica cosa, il vincolo che c'è sui contratti di leasing, perché il contratto di leasing è un contratto mentre il mutuo è stato depenalizzato dai vari governi che ci sono seguiti, da Bersani a Tremonti, tutti, diciamo, il contratto di leasing è molto vincolante, quindi diciamo ci sono dei vincoli che fanno sì che non tipo che ne so, la portabilità, scritto. Mentre il mutuo adesso si può trasferire da una banca ad un'altra, dice lei, per il leasing si potrà fare la stessa cosa, lo scopriamo direi dopo il giornale radio, manteniamo il mistero su questa eventualità. Andiamo. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS. E in video su radio24.it e su rds.it. Il segnale orario vi è offerto da Unica. L'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Cuore e denari. Eccoci di nuovo insieme, riprendiamo coordinare gli ultimi minuti con Gianluca De Candia, direttore generale di Assilea. Abbiamo cercato di raccontare l'ABC, almeno sulla base di quello che sappiamo fino a questo momento, del leasing immobiliare per acquistare la prima casa, una misura contemplata dalla legge di stabilità. In realtà la legge di stabilità introduce una serie di incentivi fiscali per questa platea. Il leasing immobiliare si conosceva già, ma non era, no, dottor De Candia, ancora molto utilizzato da parte della platea dei potenziali acquirenti di immobili. Adesso con la legge di stabilità c'è questo vantaggio fiscale che abbiamo spiegato prima. Un ascoltatore chiedeva: funzionerà come funziona per il mutuo, che adesso è possibile trasferire da una banca ad un'altra? Per il leasing immobiliare invece ci saranno più vincoli più stringenti? Ma allora, innanzitutto sono state previste sempre nella legge di stabilità tutta una serie di specifiche tutele per il cliente. Ricordo che la locazione finanziaria è un contratto di durata con causa di finanziamento, quindi è parametrato al tasso e al valore di riscatto. La società di leasing di fatto ha un mandato irrevocabile a vendere al cliente alle specifiche condizioni previste nel contratto a un determinato importo alla scadenza del contratto. Per quello che riguarda le tutele previste dalla legge di stabilità, sono tre, ma sono estremamente importanti. Ce le puoi indicare in maniera molto sintetica, perché abbiamo una puntata, certo, ricchissima, grazie. Assolutamente. Il contratto di locazione finanziaria prosegue regolarmente in caso di fallimento del venditore costruttore. Inoltre è stata espressamente prevista una moratoria, in sostanza una sospensione del contratto senza spese di interessi dei canoni, massimo per 12 mesi in caso di cessazione del lavoro, del rapporto di lavoro subordinato, oppure di cessazione dei rapporti di collaborazione. Quindi se non si può pagare appunto il canone mensile, in qualche maniera la società, esatto, di leasing può venire, esatto, incontro al sottoscrittore. E poi ultimo, anche importante, in caso di risoluzione per inadempimento del cliente non vi deve essere alcun rischio di ingiustificato arricchimento da parte della società di leasing. In questo caso la legge di stabilità ha espressamente previsto le modalità da seguire nel caso in cui appunto avvenga una risoluzione per inadempimento. Insomma, avete previsto tutte le eventualità possibili, visto che questa crisi ancora ce la trasciniamo dietro, forse ci toccherà trascinarcela dietro ancora a lungo. È chiaro che bisogna anche prevedere quei casi in cui una persona non riesca a pagare. Ma c'è anche un altro caso che dovrebbe essere contemplato, ce lo indica Biagio da Milano. Qui chiedo di essere veramente telegrafico. Biagio, buongiorno. Peraltro un assist perfetto anche per il prossimo ospite che vi presenterò per un'iniziativa che parte domani con il Sole 24 Ore. Biagio, velocissimo, grazie. Sì, velocissimo, buongiorno. A parte che la Vigilanza d'Italia non mi lascia tranquillo assolutamente, visto quello che è successo. Ma cosa succede se la società di leasing fallisce? Grazie Biagio. Dottor De Candia. Allora, qui non è la legge di stabilità che deve intervenire, ma di fatto c'è una disposizione ad hoc prevista nella legge fallimentare che disciplina che cosa accade, ma in questo caso il contratto continua e quindi da questo punto di vista vi sono tutte le tutele nei confronti del già oggi per l'impresa e un domani per il consumatore. Dottor De Candia, anche un lavoratore autonomo può essere sottoscrittore di un contratto di leasing per acquistare la sua casa? Perché molti ci stanno scrivendo. Certamente. Ecco, perché lei sa che tra lavoro autonomo e dipendente c'è sempre un trattamento differente in banca, purtroppo. Per cui senta, grazie intanto per essere stato con noi. Ci ritorneremo su questo argomento, magari a partire da gennaio 2016, quando avremo tutte le carte in regola per dare ulteriori dettagli ai nostri ascoltatori. Intanto buona giornata, buone feste e buon 2016. Auguri. Grazie a voi. Grazie. E auguri a tutti gli ascoltatori. Marco Lo Conte, il Sole 24 Ore. Buongiorno. Una voce nota, buongiorno, agli amici di Radio 24. Eccoci qua. Allora, l'ascoltatore di prima era preoccupato del fatto che una società, sì, di leasing fallisse. Ormai abbiamo tutti questo timore che le banche, che il sistema finanziario tracolli da un momento all'altro. Infatti sono noti, abbiamo dedicato al salvabanche annessi e connessi un sacco di trasmissioni negli ultimi giorni con Nicoletta, e da domani il Sole 24 Ore parte con Salva Risparmio. Che esattamente cos'è? Beh, allora, la cronaca che noi registriamo quotidianamente minuto per minuto ci racconta delle difficoltà di quello che delle banche, del sistema del credito e di quello che è successo. Cercheremo ancora di capire poi di questi giorni, di queste ore, anche le dichiarazioni delle autorità di vigilanza. Ma la vicenda dei bond subordinati ha sollevato il velo anche anche sulla difficoltà dei risparmiatori italiani di comprendere appieno quello che sottoscrivono e di compiere quindi un processo decisionale sui propri investimenti, sui propri risparmi, in maniera adeguata alle proprie esigenze. Allora noi abbiamo deciso di lanciare questo Salva Risparmio, che è un'iniziativa di educazione finanziaria, si chiama così, a me non piace molto, però insomma alfabetizzazione finanziaria. Detto al direttore, insomma, ma sì, giusto per capirsi, non è quello il problema. Vabbè, il problema è rafforzare quelle cognizioni di base per presentarsi di fronte chi ci vuol vendere qualcosa e fare le domande giuste, sapere dove mettiamo i nostri soldi, sapere le conseguenze delle nostre scelte e comprendere appieno poi alla fine, per esempio, i prospetti come sono fatti, ma chi li legge. Noi cerchiamo in questa iniziativa di dedicare molto spazio proprio alla spiegazione del prospetto informativo, che dice già molte cose, però purtroppo sono un po' pochi di le guardano. Scarsa comprensione, perché sono un po' complicate, però Marco, è veramente molto importante, come dire, rafforzare il lato della domanda di servizi finanziari, cioè i risparmiatori. Certo. I risparmiatori devono fare più attenzione e devono, con queste informazioni che noi cerchiamo di veicolare al meglio da qui alla fine dell'anno, 10 uscite, 4 pagine al giorno, per diventare risparmiatori più avveduti, più forti, più capaci di comprendere quello che è necessario fare o è quello che si fa. E capaci anche di dire no qualche volta, quando magari davanti all'impiegato di banca, al nostro consulente, ci mettiamo un pochino invece in difficoltà, perché ci sembra che ci stia offrendo veramente qualcosa di mirabolante, quindi chiaramente siamo tentati. Marco, noi vi seguiremo naturalmente con cuore e denari. Grazie. A presto, buona buon giornata lavoro. A tutti. Allora, adesso andiamo. Prima di passare al secondo argomento, ci prendiamo un bel respiro. Prosegue il nostro tour dell'aria col dottor Mauro Mocci dell'Associazione Medici per l'Ambiente ISDE Italia. Buongiorno dottor Mocci e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. La danza della pioggia di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi ha sortito qualche effetto almeno a Milano, e al nord qualche goccetta di pioggia è arrivata. Ma lei, dottore, oggi dove ci porta? Allora andiamo velocemente, andiamo ad Aosta. Sì. Qui diamo un verde. Per fortuna ogni tanto qualche verde compare. Sì. Poi scendiamo a Perugia, e Perugia invece è un rosso deciso. Un rosso bello deciso. Scendiamo ancora a sud, andiamo a Potenza. E diamo un giallo. Bene, li abbiamo fatti tutti. Colori, allora, verde Aosta, continui così, Perugia rosso, i professori direbbero, no? Può migliorare, e Potenza certo, giallo, anche lei potrebbe giallo. Fare di più, ma insomma è sulla buona strada. Come sempre, prima di salutarci assegniamo la maglia nera e forse magari anche la maglia rosa. Allora, una maglia nera la darei anche però questa volta a Potenza, perché i dati dei rilevamenti arrivano un po' in ritardo. Sì. E quindi una maglia nera per di richiamo, un trattino di richiamo. Sì. Quella rosa la diamo per incoraggiamento invece a Vicenza, perché nonostante c'è un alto inquinamento, però l'amministrazione sta prendendo delle iniziative per ridurlo, e quindi diamo una maglia rosa per incoraggiare queste iniziative, che oltre alla pioggia, insomma, non solo non dobbiamo sperare solo nella pioggia, ma anche in iniziative che possano ridurre l'inquinamento nelle nostre città. Dottor Mocci, noi continuiamo a tenere sotto controllo la situazione fino al 31 dicembre, quindi ci sentiamo domani per parlare della qualità dell'aria che respiriamo. Invece, per sapere la qualità della vita nelle vostre città, l'appuntamento è in edicola con il Sole 24 Ore. Oggi infatti sul Sole 24 Ore la classifica sulle dinamiche economiche e sociali nelle province italiane. Una piccola anticipazione che è già stata comunque data anche nel nostro GR: vince Bolzano e chiude la classifica Reggio Calabria. Milano però arriva nonostante seconda. L'inquinamento di questi giorni, diciamo, in seconda posizione. Quando è stato fatto il monitoraggio, l'inquinamento non era ancora a questi livelli. E abbiamo viaggiato lungo l'Italia, ma non ci fermiamo qui, perché oggi questa parte del programma è dedicata proprio al viaggio e agli incontri. Ci sono cose che succedono nella nostra vita quasi per caso, cose che non scegliamo ma avvengono, e spesso ci aiutano a comprendere aspetti di noi, della nostra esistenza, che fino a quel momento magari erano rimasti lì nell'angolo un po' misteriosi. Gli incontri sono proprio questo, no? Incontri di vite che si mescolano le une alle altre, spesso senza una premeditazione, ma quell'incontro ha il potere di cambiare tutto e di mettere a volte nuova luce anche nella nostra vita. Ho di nuovo voglia di bere. Niente di impegnativo, solo una birra prima di andare a casa. Poi, una volta seduto al bar, le birre diventeranno due e le patatine al banco sostituiranno la mia cena. mentre i commenti degli altri avventori sulla partita di calcio saranno la mia compagnia. Non è esattamente la chiusura ideale di una giornata e questa mia continua voglia di bere mi spaventa. Non avrei mai immaginato di diventare uno di quei tipi che passano le serate da soli al bancone del bar. Però non ho neppure voglia di andarmene a casa per trovare l'appartamento vuoto e la solita routine. Cena sul divano, un occhio alla TV e uno allo smartphone, spiando la vita degli altri su Facebook. Non ci posso credere, ma sei davvero tu? Quello che avete appena ascoltato è un breve estratto da un libro che è appena uscito e da cui abbiamo preso spunto per parlare di incontri. È una lunghissima serie di incontri fa il protagonista nel corso di questo romanzo. Noi abbiamo la fortuna di avere qui con noi i suoi due autori. Saluto quindi Giovanni Storti e Franz Rossi. Buongiorno. Ciao e benvenuti. Buongiorno. Abbiamo, sentendo questa cosa, mi è già pensato di fare un audiolibro, però con la voce di quell'uomo che ha... Che ha... Di questo uomo, che è nostro, Mario Notarelli. Mario Notarelli, sì, lo so, grande professionista della voce. Ma funziona sempre così, quando noi invitiamo autori per parlare dei loro romanzi... Quando si sentono, si emozionano. Si innamorano. Pensavamo fosse tipo Guerra e Pace di Dostoevskij, invece cavolo abbiamo sentito. È un po' come vita. Succede a noi, quando ci sentono si innamorano. Ma siamo resi niente, non si a può proposito fare di incontri, incontrateci tutte le mattine alle 10:30. Allora, oggi siete qui perché avete appena dato alle stampe un libro pieno di ispirazione con una storia davvero bella e intensa. Un libro che ha un titolo che già da solo apre un mondo, una seducente sospensione del buonsenso. Ce lo spiegate un po' questo titolo, che poi per chi leggerà il libro diventerà naturalmente chiarissimo, ma fateci entrare bene nel suo significato. Chi inizia di questa coppia? Giovanni? Il significato di questa sospensione seducente del buon senso è che, cioè, il buon senso in realtà è un buon senso comune, non è il vero buon senso, quello che noi intendiamo come buon senso. È il buon senso della mamma che dice non sudi, non correre perché sudi, non lasciare il lavoro perché è una cosa fissa e poi chissà dove vai a finire. Quindi è un buon senso un po' reazionario, cioè al contrario, e quindi sospendere questo buon senso per noi è un grosso modo per andare avanti. È necessario, Franz? Assolutamente, anzi uscire dalla routine, dal tran tran, cambiare qualcosa nelle abitudini ti permette di dare il via poi a una modifica interna e quindi il viaggio poi diventa la grande occasione. Deborah, però se lo fai avvertimi, se viaggio, ma i viaggi mentali, guarda, uno ogni due minuti, non mi vedi che ogni tanto mi astraggo. Allora, 800 24 00 24, se volete intervenire per raccontarci di quell'incontro che vi ha cambiato la vita o la vostra lettura del buon senso, se diventa un po' una palla al piede in alcuni casi. E in linea con noi c'è Alberto Pellai, perché, caro il mio Giovanni, ho voluto applicare un po' la par condicio col tuo amico Giacomo Poretti, perché certo, quando è venuto Giacomo qui a presentare il suo libro, noi abbiamo avuto Alberto che lo ha letto un po', l'ha commentato con noi. Alberto è un medico, è uno scrittore, uno psicoterapeuta, insomma tanta roba. E ci aiuta un po' a vedere oltre, a cercare significati che possono rendere un po' la nostra vita più ricca e più bella, anche grazie a un libro. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, ciao ai due autori e ciao a tutti gli ascoltatori. Ciao anche a te. Senti, a chi consiglieresti tra i nostri ascoltatori un libro così? Ma credo che sia un libro interessante per un po' per tutti, forse per chi in questo momento ha bisogno di un romanzo di formazione pur essendo adulto, perché questa è la cosa che secondo me incuriosisce tanto. Un tempo i romanzi di formazione erano per gli adolescenti, adesso c'è davvero un mondo nella narrativa contemporanea che è un po' l'equivalente per noi uomini adulti tra i 40 e i 60 anni, che abbiamo già stabilizzato molte cose nella nostra vita e in realtà sentiamo che c'è un pezzo di noi che sta andando ancora alla ricerca di qualcosa che non è arrivato. Tu capisci che devi ancora costruire, ancora mettere dentro qualcosa nella tua vita che non appartiene alla normalità, alla quotidianità, che deve essere trovato, che deve essere cercato. Direi che questo libro è proprio un percorso di formazione, una serie di incontri, la ricerca di cose che nella vita non trovi lì già pronte, ma devi andarti a prendere, e quindi un buon modo per interrogarsi mentre guardi il protagonista del romanzo che si muove nella sua storia, se quelle cose che lui va cercando in realtà tu le hai già trovate, oppure anche tu ti devi mettere in viaggio. Bene, ma come ci hai detto Alberto, anche questo libro fra i tanti elementi che presenta ne ha uno che vorremmo così condividere con i nostri ascoltatori, che a me piace molto, è quello dell'incontro. E questa è la domanda che facciamo a voi ascoltatori: qual è l'incontro che ha lasciato un segno profondo nella nostra vita? Un incontro d'amore, perché no? Un incontro professionale, una persona che poi è diventato il vostro miglior amico, un amico che può essere anche peloso, certo, vero? Ecco, assolutamente. Non, e può avere anche un tartufo. E provate anche voi a dirci anche come avete capito che un incontro nato per caso in realtà ha poi cambiato in modo significativo il corso della vostra esistenza. Del resto, Giovanni e Franz, anche voi siete il risultato di un incontro. Franz, raccontaci un po' come sono andate le cose. Chi ha incontrato chi e come è nato un po' il vostro sodalizio, perché tra l'altro siete al secondo libro insieme. Sì, ci siamo incontrati camminando, perché eravamo in giro a fare corse sulle montagne, che è una passione che condividiamo, e ci siamo incontrati, e poi appunto ogni incontro lascia il segno, poi magari si sviluppa qualcosa di che va un po' oltre quello che è magari la conoscenza occasionale. E se tu sei aperto e ascolti le persone che incontri, magari scopri molto di più di quello che potrebbero darti al primo momento. Poi con Giovanni abbiamo esplorato un po' questi tipi di personaggi, abbiamo tentato di mettere nel libro un po' di persone che sono sorprendenti in qualche maniera, speriamo di esserci riusciti. Anche insomma. Animali. Anche animali. Sì, comunque gli incontri sono il sale della vita. Metterei al primo posto nella Vero. Vita gli incontri, assolutamente. Uno, perché ti possono spiazzare e portare da un'altra parte. E due, perché sono quelli che ti danno di più, insomma. Oltre la colazione alla mattina. 800 24 00 24 se volete parlare di incontri con noi, perché quando Giovanni e Franz sono entrati qua in studio con Deborah abbiamo detto: è Natale, noi vogliamo naturalmente dare un vostro libro agli ascoltatori. Ah, certo. Uno per ciascuno. Allora Franz, mettiamo prenderemo? un po' di pepe ai nostri ascoltatori, perché le cose si guadagnano, e quindi noi abbiamo lanciato il tema dell'incontro che ti cambia la vita. Incontro, però non sono gli incontri, non ci portano sempre, no, cose positive, magari sono degli incontri che in qualche modo ci stoppano, non sono assolutamente sempre delle... certo. Ecco, tu a chi vorresti dare questo il libro per Natale? Innanzitutto un uomo o una donna? Ci sono delle figure femminili nel vostro libro? Non capisco perché ride. Io sono profondamente innamorato delle due protagoniste femminili del libro, e tra l'altro sai che si dice che poi i personaggi del libro vengono fuori un po' anche per conto loro, poi scrivendoli in due è ancora più particolare questa cosa, per cui io sono innamorato di queste due donne e mi piacerebbe quindi pensare più a una donna. Margherita e Teresa, e a te tocca l'uomo. A me tocca l'uomo. Ma sì, va bene anche l'uomo. Va bene, l'uomo... dai, facciamo un uomo e una donna. All'800 24 00 24, ma Alberto, facciamo un uomo che sappia che cos'è il ginkgo biloba. Il ginkgo biloba, dai, questo mi piace. Alberto, tu magari lo sai, comunque sei escluso da questa competition. Non vederò l'arcano. Bravo, noi adesso c'è qualche cosa che ci aspetta. Sì, io li ho incontrati tantissimi anni fa e ancora ce li ho sul groppone, i mercati finanziari, quindi anche questa mattina mi devo cimentare nei racconti di questa bella giornata. Hanno cambiato un po' la tua vita e anche Mamma la nostra mia. Da quando li leggi devo tu. Riflettere se in bene o in meglio, non mi sono arricchita. Su questo voglio essere subito molto chiara. Beh, certo, neanch'io da quando ti conosco. A tra poco. Ciao. Cuore e denari. Eccoci qua. Ma parliamo in coppia. Povero Carlo. Povero Carlo. Allora. Siamo qua, torniamo insieme, uno studio affollato, con noi ci sono Giovanni Storti e Franz Rossi, al telefono c'è Alberto Pellai, stiamo presentando il libro di Giovanni e Franz, ci state richiedendo il titolo, un attimo, l'abbiamo detto già due o tre volte, lo diciamo anche una terza, una seducente sospensione del buonsenso, dillo tu Giovanni. Una seducente sospensione del buonsenso. una seducente sospensione del buon senso. Una seducente sospensione del buon senso. Sono un po' panterona. 800240024 per raccontarci di quell'incontro speciale che vi ha cambiato la vita. Abbiamo Federica da Pistoia, Nunzia da Verona, Mino da Bari. Le richieste per parlare con noi, ma anche per ricevere un libro autografato dagli autori. Franz ha fatto una richiesta da gentiluomo. Vero? Beh, sì, io vorrei parlare con una donna e che abbia a me piacciono molto le storie, a me piace andare in giro a raccogliere le storie, per cui una storia interessante al femminile. E invece uno, non dico esperto di piante, ma che ormai l'abbiamo svelato che è una pianta, però si può andare nel particolare. Bravo, perché sulla pianta erano preparati. Anche perché tu, come me, insomma, hai un amore per le piante, c'è scritto, e anche per gli animali. Per gli animali, certo. Per gli amici. Non tutti. Per i pelosi. Gli uomini sono continuamente provocati dal fare. Non si accontentano mai. Si complicano la vita. O bene che vada, la riempiono di impegni. Sembra che non possano fare a meno di indaffararsi. Per noi animali è diverso. Godiamo della vita vera. Stendersi al sole senza fare niente. Bighellonare guardandosi attorno. Correre a perdifiato solo per il piacere fisico di farlo. Mangiare quando si ha fame. Poltrire quando fa freddo. Non manipoliamo l'ambiente, ci viviamo. Quelle che vi abbiamo appena fatto ascoltare sono le parole di Armstrong, che è un cane parlante nella storia pensante. Sì. Come mai avete deciso di dare un ruolo così importante ad un cane? Avete fatto bene. Beh, perché è venuta l'idea? In questo viaggio non si può mai dire, comunque viene sempre dalle discussioni, dal modo in cui scriviamo. Si è venuta questa idea perché appunto Gilberto, che è il personaggio che fa questo viaggio, che trova questo cane con cui fa appunto il viaggio, è un personaggio molto razionale, molto dentro nella sua umanità, e quindi volevamo dargli un po' un lato anche più bizzarro, più selvaggio, e quindi abbiamo pensato di dare questo ruolo al cane. È un grillo parlante senza buon senso. Sì, beh, direi che è il controcanto della parte istintiva nostra, per cui è la pancia che parla alla mente, ecco. Alberto, tu fuori onda mi dicevi che questo è uno degli aspetti che ti ha più colpito del libro. Sì, trovo proprio che sia una modalità molto interessante e anche molto divertente di far vedere al lettore tanti aspetti che nella quotidianità ci sono in azione di noi stessi e di cui spesso siamo veramente inconsapevoli. A me dell'incontro col cane è piaciuto intanto che Gilberto proprio si lascia piano piano trasformare da quel cane. L'incontro è puramente casuale, lui progressivamente sente di doversene prendere cura e poi improvvisamente scopre che il cane, con tutto quel modo di guardarlo, osservarlo, pensarlo e anche criticarlo, sarà proprio un agente, un attore di cambiamento incredibile nella sua vita, e mi sembra che sia un ottimo esempio anche di quello che andate cercando voi questa mattina. Ci sono incontri che non scegliamo, che succedono, accadono, e quando siamo aperti, cioè non abbiamo poi così tante resistenze, ci accorgiamo che quell'incontro, quel click effettivamente ci porta in una direzione che ci rende migliori. Infatti molti di voi si concentreranno sulle persone, ma potrebbe esserci anche un incontro con un animale. Assolutamente, io per esempio ho un gatto e spesso lo osservo e capisco che lui è veramente un essere perfetto, e quindi cerco di diventare anche un gatto con fatica. Allora, dove andiamo a proposito di viaggi e di incontri? Andrei da Nunzia da Verona, perché tra le prime ad essersi candidate a raccontarci la storia di questo incontro che ha avuto mi ha incuriosito molto, e forse piacerà anche a Franz sulla base della richiesta che ha fatto prima. Nunzia, benvenuta. Grazie, buongiorno. Ciao, buongiorno. Nunzia. Che emozione, buongiorno, salve. E emozione anche perché vedo che sta uscendo una cosa bella. Allora, per farla breve, spero, dopo un fulmineo innamoramento, non dovendo più tornare dove, nel senso, ho fatto una piccola convivenza, poi trovandomi in dover scegliere cosa fare, ho scelto di starmene, di vivere da sola. E c'era una mia amica in cui aveva una ragazza che ho conosciuto 3 anni fa, non tanto, con 2 figlie, 9 e 14 anni, e vari problemi in famiglia, da cui che la mia decisione, essendo libera e seguendo le cose, conviviamo da 2 mesi in un bel appartamento abbastanza grande, siamo in 4 per fortuna, tutte insieme appassionatamente. Esatto. Una storia di amicizia, Nunzia, la mettiamo lì. Ma da parte poi Franz, non tanto amicizia, perché non è che siamo amiche io e lei, senso, non è la mia amica, sì, però non è la partenza, non è l'amicizia, ma questa cosa da fare insieme, e questo mi ha portato appunto a avere questa svolta. Esatto, questa svolta. Grazie. Nunzia, la teniamo lì, come si dice a bagnomaria, perché poi Franz deciderà chi dare il suo libro. Intanto io volevo dirvi, insomma, questo Gilberto è un tipo molto affascinante, no? Perché certo, a un certo punto cambia, va e gira e fa proprio degli incontri, proprio perché decide di spogliarsi un po' di tutto. Ci tratteggiate un po' questo personaggio e poi andiamo magari alle figure femminili, dato che Franz, tu sei nella quarta di copertina si legge proprio un girovago, e nella tua presentazione, quindi mi è venuto in mente, ma il girovago è uno che gli incontri li cerca o li sfugge? No, assolutamente li cerca, il girovago va in giro a raccogliere quello che trova, anzi se tu affondi nella quotidianità, nel tuo ambiente, sei molto più sicuro, perché ovviamente conosci tutto, non hai problemi, certo, però non hai stimoli nuovi. C'è questa cosa della stabilità, che magari è considerata una cosa positiva, ma che invece nel mio modo di vedere è assolutamente quanto di più sbagliato. Devi metterti in moto, devi partire e troverai le persone, troverai... Che la vita ti viene incontro. Assolutamente. Giovanni? Poi anche il mio parere. Perché con poi tu allora lavori, scrivi a 4 mani con Franz, lavori con il trio, quindi insomma certo, tu stai sempre comunque in compagnia di qualcuno che hai incontrato nel corso della tua vita. Sì, è vero, l'altro noi ci siamo allargati, anziché, cioè in genere i gruppi comici, non solo, tendono a stringersi, no? Sì, si dividono eccetera, noi ogni anno che passa allarghiamo il nostro campo, cioè prendiamo un altro collaboratore, troviamo altre persone che lavorano con noi eccetera eccetera, quindi anch'io sono del parere che gli incontri si fanno muovendosi, assolutamente, non si fanno stando a casa e guardandosi poco in giro. Io vorrei mettere un'altra cosa sul tavolo, che è invece l'importanza della solitudine, paradossalmente, sì, perché quando tu vai in giro da solo, quando impari a stare da solo, poi diventi una persona interessante da incontrare. Cioè, secondo me, alla base di tutto deve esserci la capacità di stare da soli, e poi gli incontri arrivano. Esatto. Alberto ci ha messo sul tavolo questa parola, solitudine. Vedo già che Albertuccio è pronto con le antenne, perché questa parola lo stimola molto, naturalmente. Beh, siamo, come medico, ma come psicoterapeuta. Scusa, siamo eredi di Gaber, quindi ecco, insomma, lui questa cosa. Alberto. Ma la solitudine, quando è una scelta, di sicuro diventa poi una risorsa incredibile nell'incontro, perché la persona che è sola per scelta, quando la incontri non ti chiede niente, cioè mette a disposizione proprio la sua complessità e la sua ricchezza. È molto diverso però incontrare invece una persona solitaria, perché questa condizione la subisce, non la vuole, perché quella è spesso una persona che toglie gradi di libertà nell'incontro, cioè un'ansia tale di rimanere connesso con la persona che è disposta a mettersi in relazione con lui, che spesso diventa molto faticosa da gestire, cioè una persona da cui nell'incontro scopri che alcune cose un po' ti disturbano, perché diventano quasi vincolanti. Chi sa stare molto bene in coppia sa stare molto bene anche da solo, cioè saper stare da soli è una straordinaria risorsa poi per stare nell'incontro con l'altro, ma anche in una coppia affettiva stabile di lunga durata. Pensa Giovanni come sa stare da solo in... ero scontatona, questo... come sai stare tu da solo, che stai, lavori in trio, anzi in un trio allargato, scrivi in coppia. Che rapporto hai tu con la solitudine a cui faceva riferimento Franz adesso? Io ho un buon rapporto, mi piace. Ma ne senti proprio il bisogno? Assolutamente, sì sì, a me piace moltissimo per esempio correre in gruppo, ma mi piace correre da solo, mi piace andare ho un posto di campagna dove mi piace stare, mi piace andare con gente, ma mi piace proprio camminare da solo e guardare la natura da solo. Andiamo a sentire, a incontrare qualche nostro altro ascoltatore. Federica da Pistoia, benvenuta. Benvenuta a voi, grazie, buongiorno. Buongiorno. Qual è l'incontro che cambia la vita? Senta, secondo me è l'incontro con i figli, quando nascono. Quando ti guardano, vero? Sì, è un incontro momento, sì. Inaspettato, anche se si aspettano per 9 mesi, però quando li guardi, li vedi, li tocchi, è un incontro che ti cambia completamente la vita, più di ogni altro. È l'incontro per antonomasia, per definizione, io la penso così. Allora, per Federica sono i figli. Federica, lei oltre a questo incontro mi dica anche, l'ha proposto Franz, che rapporto ha con la solitudine? È una cosa che cerca oppure che evita? Ma certe volte la cerco, sì sì. Sono una persona molto socievole in generale, però sto molto bene anche sola. Federica, sì, le auguriamo già buon Natale in anticipo, intanto la teniamo lì perché poi Franz scioglierà la riserva. Ma cosa vuol dire? Ho detto vabbè. Vabbè, mettiamo una buona parola. Quando si scrive un libro, io non lo so, lo chiedo anche ad Alberto Pellai perché anche lui è uno scrittore, si pensa a, ed è una domanda, si pensa ad un lettore ideale con cui no, fare un incontro oppure è un desiderio, cioè si scrive perché si ha piacere di raccontare una storia? Ma sì, assolutamente la seconda, almeno noi non abbiamo mai pensato di scrivere pensando a un target di persone che leggessero, no, viene in mente una storia, poi ti diverti a elaborarla e hai proprio il piacere di poi di mostrarla a qualcuno, per cui è un piacere. Sì, direi che la cosa più bella poi è incontrarsi dopo, cioè vedere la storia riraccontata attraverso le vicende delle persone che l'hanno letta e cosa ne hanno tratto loro. Questa è forse la cosa più divertente dello scrivere. Ci sono dei personaggi molto particolari nel vostro libro, a partire dal protagonista, no? Che appunto va. E come anticipavamo, ci sono delle figure femminili che sono, come Alberto, diresti profilate? Tu? Come sì, hanno proprio un profilo molto particolare. Un profilo molto particolare. Poi ce le raccontate dopo le informazioni sul traffico. Cuore e denari. E siamo ritornati insieme, oggi parliamo di incontri, parliamo anche di solitudine, incontro, viaggio e cambiamento, direi, sono le tre parole chiave di oggi. Alberto, ma se tu dovessi definire quali sono le caratteristiche di un incontro che vale la pena vivere, cercare e rincorrere, prima di andare a raccontare, a descrivere le due donne che ci piacciono tanto del romanzo di Giovanni e Franz, quali caratteristiche indicheresti ai nostri ascoltatori? Ma direi che secondo me l'ingrediente è proprio un'emozione, della sorpresa, lo stupore, cioè quando un incontro davvero lascia un segno nella tua vita è perché ti colpisce per quella parte di differenza che c'è tra te e la persona che incontri, che può segnare anche per te un percorso di cambiamento o di scoperta di qualcosa che già non ti è noto, quindi la sorpresa, lo stupore, la fascinazione, se vuoi in parte anche la seduzione che c'è dentro a quell'incontro, sono tutti quegli aspetti che intrigano e che spingono poi a voler conoscere meglio l'altro. Franz, non a caso Alberto secondo me ha usato la parola seduzione, perché sono seduttive le donne del vostro romanzo, è di una seduzione molto particolare, sono delle donne. Ma sì, io credo che non è la seduzione, no. Non è la seduzione che uno può pensare. Certo. Jessica Rabbit, ecco, no. Non è Jessica Rabbit, sono invece delle donne forti, delle donne con una personalità bella marcata, che accettano di mettersi in gioco, che accettano un confronto alla pari, e credo che questo sia molto seducente, almeno per me è molto seducente. Sai, però tanto mi guardi. No, sì, ti guardo perché... È così perché sono, come dice Franz, donne con una personalità, quindi hanno una fascinazione, oserei dire, completa, non è una fascinazione di facciata. Sono quelle cose che quando se senti parlare, ci stai assieme, eccetera, aumenta questa fascinazione, non diminuisce. Ecco. Noi oggi parliamo di incontri, potete descriverci un incontro con una persona, con un animale, e ci sono anche degli incontri che avvengono con delle, in modo strano, no? Nel vostro libro, cioè degli incontri che non si toccano, ci sono ma non ci sono tanto. Giovanni mi guarda, non voglio svelare, c'è un incontro, c'è un personaggio che rimane tutto, no? Che porta avanti il protagonista per tutto il romanzo, che è sicuramente una figura chiave del vostro romanzo. Sì, questo personaggio, questo Juncker, che appare fin dalle prime pagine e che poi ha alcune caratteristiche che poi vengono svelate strada facendo. Allora, questo libro, non so se l'avete capito, a noi è piaciuto molto. Alberto, sei d'accordo? Sì, sì, io credo proprio che sia un libro, per esempio, nelle vacanze di Natale, che letteralmente ti fa fare un percorso. Allora, noi andiamo ai nostri ascoltatori, Alberto, che si sono messi in gioco. Abbiamo Luca da Milano. Buongiorno, Luca, benvenuto. Sì. Luca? È scivolato. Pronto? Luca, buongiorno. Sono Luca, buongiorno. Posso fare una domanda? Mi sembra di conoscere questo. Allora, volevo secondo sapere nome. Una cosa. Quel sì. Cane lì del romanzo, no? Sì. Ma è vaccinato? Avete vaccinato? Allora, è chiaro che dentro il nostro trio c'è un'anima nera. E questo uomo che sta parlando. Poi volevo sapere una cosa, scusi, ma poi quando fai bisogno il cane, andate in giro col sacchetto o sporcate? Dobbiamo andare in giro col sacchetto, perché altrimenti il paradiso ci è precluso. Ciao Giacomino. Ciao, il più bello del trio. Scusami. Ah, sì, io vabbè, sempre. Pensavo di essere io, che sfiga. Vabbè, pazienza. Vabbè, insomma, un bel regalo di Natale ci ha fatto. Sì. Telefonata spontanea stamattina a sorpresa, perché lui è un grande ascoltatore di Cuore Denario, oltre che essere un amico di Nicoletta di Scorribande per il parco. Ma non è stato mai bravo a fare le imitazioni, infatti è stato posso fare l'imitatore? No, guarda, se c'è una cosa che non puoi fare è quella. Bene. Cantare e imitare non posso farlo, va bene. Purtroppo ti è precluso. Però potreste venire tutte e tre qua con l'anno nuovo. Mi avete promesso di portarmi Aldo perché lui dipinge, quindi io volevo parlare di investimento in arte, avevo già anche il tema di denari pronto, ma qua... Ho capito, ma uno che dipinge in radio cosa lo porti a fare? È come un mimo, un disastro. Allora lo lasciamo a casa. Va bene, comunque, avete mortificato la mia iniziativa. Sì. Scusate, io ho telefonato stamattina per salutare soprattutto Franz. Grazie Giacomo. È gentile, devo dire. Ciao, allora guarda, non sentiamo bene, non si sente bene. Peccato, dalla regia lo richiameranno. Tra le donne ovviamente. Comunque vi saluto. Grazie Giacomo. Giovanni, ciao Giacomino. Buone feste Giacomo, grazie molte. Ciao. Un abbraccio, ciao. Allora andiamo da Brescia? Andiamo a Brescia da Silvestro, perché invece qua abbiamo il nostro candidato alla risposta al quizzettone che ha fatto il nostro Giovanni. Biloba. Esatto, lo ribadiamo il quizzettone? Giovanni? Sì, cos'è il ginkgo biloba? E Silvestro? Vediamo. E cosa c'entra con il libro? Cosa c'entra con il libro? Però vediamo. Questa prima non l'hai fatta, vediamo. Questa seconda. No, perché abbiamo giocato un po' sul... A bruciapelo, così, a tradimento. È facile. Silvestro? Che lei... Tra poco c'è un mastico intanto. Si chiama Silvestro, voglio dire, quindi dovrebbe sapere queste cose. Perché c'è il pino, vai, no? Silvestro. Cioè. Ah, io pensavo e gatto quindi... Silvestro, e quindi come Armstrong non so se andavano d'accordo. Invece. Ah, ecco. Che legame può esserci tra la pianta e il libro? E qua? Difficile, se non hai letto bene il libro, è chiaro che. Ma no, intanto facciamo spiegare che cos'è che questo Ginkgo Biloba. Silvestro, che cos'è? Silvestro. Che cos'è il Ginkgo Biloba? Sì, ti sentiamo. Che cos'è il Ginkgo Biloba? Silvestro. Purtroppo. Sì, mi sentite voi? Sì. Cavolo. Io mi sento molto male. Vabbè. Va bene, Silvestro, parli lei, se no dobbiamo salutarla. Parla o non parla? Silvestro non parla, l'avete emozionato però. Perché no, era impreparato, ma in realtà molti hanno risposto con l'SMS, qualcuno a cui regalare il libro lo troviamo. C'è, assolutamente. Sicuramente. Vabbè dai Giovanni, tu che sei un grande amante delle piante, raccontaci del Ginkgo Biloba. Appunto è un albero molto bello, ad alto fusto, con le foglie particolari, quasi a manina, molto, che di autunno diventano gialle, quindi interessante. Poi il maschio e femmina, gli alberi sono maschio e femmina, e quando fanno le bacche sono veramente puzzolenti, quindi bisogna cercare di scegliere la stagione giusta. Vedi, anche gli incontri hanno le loro stagioni. Assolutamente. Anche un altro aveva risposto, un altro all'SMS, una bellissima pianta che però in autunno produce bacche gialle spuzzolentissime, dice. Sì, ma solo adesso non mi ricordo se il maschio o la femmina, quindi basta prendere l'altro tipo e sarà il maschio secondo, ma però perché sono... Allora, vogliamo farvi sentire, così voi sentite, un altro breve estratto del libro di Giovanni e di Franz. Il mondo è dei semplici. Noi e le nostre vite ricche di impegni, di obiettivi, di aspettative, non siamo più in grado di apprezzare la gioia che proviene dalle piccole cose. Sicuramente Sergio non arriverà da nessuna parte, ma in fondo anche questa mia ansia di andare dove mi sta portando. Apro la porta che dà sull'officina e mi ritrovo in una stanzetta con un letto e un tavolinetto sul quale è accesa una lampada da notte. Mi spoglio, vado in bagno, mi lavo i denti e mi butto sul letto. Armstrong dorme già. Io provo a riprendere in mano il taccuino di Juncker, ma gli occhi mi si chiudono e di colpo è solo pace. Sono bei momenti questi, Giovanni. Un commento a questa, che è un incontro con se stessi, uno, no? E un viaggio per ritrovare se stesso in fondo, no? Come aveva un po' anticipato Alberto. Sì, beh, il viaggio è sempre fatto in questo modo, cioè lentamente e senza una meta vera, è sempre un viaggio un po' dentro se stessi, perché tutto quello che incontri è nuovo e viene elaborato in un modo diverso, quindi riesci molto di più a pensare a quello che sei e quello che fai. Franz, tu che sei un girovago e quindi ti capita spesso di rimanere solo e quindi di rimanere solo con se stessi, noi oggi in chiusura di questa, così, di questa puntata vorremmo proprio insieme con l'aiuto vostro di Alberto Pellai come fare un buon proposito, no? Per il prossimo anno, per chiudere quest'anno con un tentativo di recuperare un po' quella parte di noi che tendiamo invece a non incontrare mai per una serie di ragioni, perché non abbiamo tempo, perché è faticoso, eccetera, che comunque secondo me, al di là delle parole che possono, no, sembrare le solite cose, no, ascoltati eccetera, può farci bene, anche le ricerche tra l'altro lo dimostrano. Sì, direi che forse la cosa più difficile ed è l'errore che fa più comunemente Gil, il nostro protagonista, è quello di cercare di far emergere a livello razionale come è veramente. Invece Armstrong gli insegna un po' alla volta ad accettare com'è, a prescindere, cioè senza dare per forza tutti i nomi a tutte le cose. E questo poi funzionerà anche con Margherita. Certo. E questo forse direi che è il proposito che potremmo provare a fare per il prossimo anno, certo. Cioè provare ad accettarci un po' come siamo e a scoprire come siamo, dimenticandoci della testa e lasciando un po' che sia il resto del corpo a comandare. Allora, non dimenticatevi che sulla nostra pagina, ancora per oggi, poi domani ritorniamo naturalmente con l'incipit in diretta di Andrea Vitali. Oggi il tempo era andato un po', no? Ma abbiamo voluto ben spenderlo assolutamente con i nostri ospiti di questa mattina. Quindi sulla pagina trovate l'incipit di quest'altro pezzetto di favola. Di Andrea continuate Vitali. A scrivere, invitiamo a scrivere naturalmente anche Giovanni e Franz. Vi ricordo il titolo: Una seducente sospensione del buonsenso. Grazie. Aggiungerei una piccola cosa, che il libro comunque è scritto con ironia e divertimento, molto, che sembrasse troppo. grazie molto per essere stati con noi. Buone feste naturalmente, grazie ragazzi. Ciao, a presto. Ciao.